Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Alberto Crespi, co-direttore della 27ª edizione della rassegna di cinema restaurato Narni, Le vie del cinema. A Parco Pubblico Bruno Donatelli dal 3 al 7 agosto 2021. Ben trovato Alberto. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie dell'attenzione. Ci sentiamo ogni anno, raccontaci. 27 anni, prima diretta da Giuliano Montaldo, poi io ho affiancato il mio caro grande amico Giuliano Montaldo, che continua comunque a esserci vicino, e da 27 anni proponiamo a un pubblico che non è solo di Narni, perché gli amici narnesi del comune di Narni mi dicono che ogni sera vedono volti nuovi che evidentemente vengono da quella parte dell'Umbria e qualche volta anche da più lontano, e proponiamo al pubblico dei film italiani, per lo più restaurati. Quest'anno abbiamo 3 restauri della Cineteca Nazionale, che lavora all'interno del Centro Sperimentale di Cinematografia, un restauro del Museo del Cinema di Torino e un restauro della Cineteca di Bologna, che è un partner ovviamente importante, che ha il suo festival, il Cinema Ritrovato, ma noi nel nostro piccolo in 5 serate proponiamo al pubblico 5 film, credo di grande qualità, legati dal filo rosso che abbiamo individuato da un po' di anni e che in realtà, volendo, risale proprio alle origini della nostra manifestazione. Questo filo rosso è la storia d'Italia raccontata attraverso il cinema, perché noi siamo convinti che il cinema italiano sia un grande testimone della storia del nostro paese e che il modo migliore di imparare o di ripassare a volte la storia del nostro paese sia proprio quello di affidarsi ai classici. E credo che anche i 5 titoli di quest'anno siano in questo senso molto importanti. Mi piace sottolineare che alcuni dei film di quest'anno sono classici relativamente recenti. Uno è Caro Diario di Nanni Moretti, che è un film del 1993, andò a Cannes in concorso, mi pare di ricordare, nel 94, e l'altro è Padre Padrone dei Fratelli Taviani, un film che nel 77 vinse la Palma d'Oro, grazie alla giuria presieduta da Roberto Rossellini, che fece il gesto, credo anche politicamente importante, di premiare per la prima volta nella storia dei festival, non solo del Festival di Cannes, un film prodotto dalla televisione. Se posso spendere 2 parole sul restauro di Padre Padrone, mi piace raccontare come è stato fatto, perché è un restauro diverso dal solito. Normalmente si prende un vecchio film, si prende il negativo originale o i materiali che sono a disposizione e li si rimette a posto. Se ci sono sequenze a suo tempo tagliate, magari si reintegrano. Padre Padrone è un restauro anomalo, perché la storia è la seguente. Il film, prodotto dalla seconda rete della RAI, quella che oggi chiamiamo Rai 2, era stato girato in 16 mm. Per presentarlo però a Cannes fu gonfiato, con un procedimento tecnico che avviene spesso, in 35 mm. Ma questo gonfiaggio in 35 mm, realizzato non benissimo dal punto di vista tecnico, tagliò parte dell'inquadratura e fece sì che una parte dell'inquadratura che noi vedevamo fosse lievemente sfocata. Tant'è vero che Paolo Taviani ci ha raccontato che Rossellini, dopo averlo visto il film, disse il lavoretto non è stato fatto benissimo, però insomma vediamo che cosa si può fare, e poi gli fece vincere la Palma d'Oro. Ecco, questo restauro ha riportato il film al suo formato originale dei 16 mm e alla sua limpidezza originale, per cui veramente questo restauro di Padre Padrone fa sì che si possa vedere il film come all'epoca nessuno l'aveva mai visto, perché la copia in 16 mm non è mai circolata, per cui si può dire che è un film nuovo. E Paolo Taviani, che ha seguito il restauro, ne è rimasto estremamente contento e particolarmente emozionato. Gli altri titoli? Sono A ciascuno il suo di Elio Petri, che ci permette di ricordare anche noi il centenario della nascita di Leonardo Sciascia, che è avvenuto all'inizio dell'anno, perché Sciascia era nato nei primi giorni del 1921. Pane e cioccolata di Franco Brusati, che è un film su un tema sempre fondamentale nella nostra storia, nella nostra cronaca, un film sull'emigrazione, che serve anche in questo caso a ricordare un centenario di quest'anno, quello della nascita di Nino Manfredi, magnifico interprete di quel film, in cui a un certo punto, come ricorderete, lui esulta in un bar di svizzeri, dove fino a quel momento si era mimetizzato, perché l'Italia vince contro l'Inghilterra, stanno trasmettendo una partita di calcio, quindi sarà particolarmente divertente forse vedere quella scena lì quest'anno. Dopo i noti fatti, il quinto film, che poi è il primo che presenteremo la sera del 3 agosto, è In nome della legge di Pietro Germi, per commentare il quale verrà l'onorevole Chinnici, la deputata europea, la figlia di Rocco Chinnici, un magistrato ucciso dalla mafia. Quindi sarà una serata, credo, particolarmente emozionante, perché la signora Chinnici potrà mettere in parallelo il ricordo di suo padre con il personaggio del pretore coraggioso interpretato nel film da Massimo Girotti. Al tempo stesso è interessante rivedere In nome della legge, che è uno dei primissimi film in cui si parla di mafia nel cinema italiano, ricordiamo un film del 49, fino ai primissimi anni 60, quando fu istituita la famosa commissione parlamentare antimafia, la mafia ufficialmente in Italia non esisteva, non se ne parlava nel cinema e tantomeno nella politica, sui giornali e così via. Germi racconta una mafia in qualche misura ancora romantica, perché il capo mafia interpretato da Charbonnel è un personaggio quasi da cattivo di film western, molto affascinante. Però il film è bellissimo, ricorda molto i western di quell'epoca, di John Ford, di Howard Hawks. Era veramente un tentativo di girare in Sicilia un film all'americana. Per molti motivi In nome della legge è un film che è molto interessante rivedere oggi a distanza di tanti anni. Continuano i ritrovamenti e i restauri? Continuano. Il Centro Sperimentale ha appena annunciato che a Venezia, per esempio, la preapertura della mostra sarà dedicata al restauro di Per Grazia Ricevuta di Nino Manfredi. Anche in questo caso serve a celebrare il centenario di questo grandissimo attore. I restauri continuano, sono costosi, come noto. Il prezzo di un restauro oscilla tra gli 80 e i 100 mila euro, dipende molto dallo stato dei materiali, dalle condizioni in cui è la pellicola e anche dalla lunghezza del film, come è facile immaginare. Restaurare un film di 3 ore costa di più che restaurare un film di 1 ora e mezza, però per fortuna continuano grazie a enti quali appunto la Cineteca Nazionale, il Museo del Cinema di Torino e la Cineteca di Bologna, con i quali Narni ha una partnership ormai consolidata. Noi siamo una vetrina del lavoro fatto altrove da tecnici di grande valore, quelli appunto della Cineteca o del Laboratorio dell'Immagine Ritrovata di Bologna, ai quali siamo assolutamente debitori. A me fa piacere ricordare che quest'anno per il terzo anno di fila sarà nostro ospite, insieme ad altri ospiti, Sergio Bruno, che è il responsabile restauri della Cineteca Nazionale. È una di quelle persone che lavorano dietro le quinte, nel buio dei laboratori, ancora con le moviole, ancora spesso toccando fisicamente la pellicola. Ecco, senza il lavoro di queste persone, il patrimonio del nostro cinema e del cinema in generale sarebbe molto più in pericolo. 27esima edizione della rassegna di cinema restaurato Narni, le vie del cinema, al Parco Pubblico Bruno Donatelli, dal 3 al 7 agosto 2021. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore Alberto Crespi. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie a voi, a presto, vi aspettiamo a Narni! Con Stefania Bianchi, direttrice artistica, per presentare la 19esima edizione di Guerra e Pace Film Fest a Corte San Gallo a Nettuno dal 26 luglio al 1 agosto 2021. Stefania, ben trovata. Buonasera, ben trovati a voi. Per chi non lo conoscesse, cos'è? 19esima edizione di Guerra e Pace Film Fest è una rassegna cinematografica, ma non solo, perché non presenteremo solo film, ma ci saranno anche documentari, da questa edizione anche cortometraggi e libri. E quest'anno affronteremo come tema Memorie di guerra, quindi un filo conduttore con il quale cercheremo appunto di raccontare le memorie di guerra da un punto di vista molto particolare, perché protagonisti di tutte le nostre storie sono giovani, ragazzi e in alcuni casi anche bambini, come nel film La sposa bambina o Iona che visse nella balena. I film proposti quanti sono? Sono praticamente 7 serate e si alterneranno film e documentari. Apriremo la prima serata del 26 luglio con Il Varco di Federico Ferrone e Michele Manzolini, un bellissimo documentario in collaborazione con l'Istituto Luce Cinecittà. Ma poi ci saranno film come Il figlio di Saul, un film estremo, bellissimo, meraviglioso, che consiglio a tutti di venire a vedere, e Becast, Un viaggio per la felicità di Tarzan Kader, La sposa bambina e L'occhio di, che è un altro documentario con l'Istituto Luce Cinecittà. Insomma, un bel percorso, un bel viaggio cinematografico proprio tra le memorie di guerra. Come saranno articolate le giornate? Si inizierà la sera dalle ore 21 al Forte San Gallo, Forte di Nettuno, che è questa bellissima fortezza del 500 sul mare, quindi vi invito a partecipare perché la visione di un film in un luogo d'arte storico come questo è veramente una bellissima esperienza. Si inizia alle 21 e si alterneranno film, documentari e cortometraggi, ma anche la presentazione di libri. Abbiamo un libro molto interessante di Pietro Del Re, che insomma tutti conosciamo, l'inviato degli esteri della Repubblica, e quindi con lui insomma parleremo del suo libro Dalla parte giusta, donne e uomini che salvano il mondo. Quindi è prevista comunque anche la presenza di ospiti. Certo, ci saranno gli ospiti, soprattutto gli autori dei libri, e ci tengo a dirlo perché un altro libro che presenteremo è la scrittrice più giovane che in 20 anni di festival mi ritrovo proprio a presentare, ed è Elena Mora, una giovanissima scrittrice, appena 13 anni ed è già il suo secondo romanzo, e quindi con lei ci faremo raccontare La stella in più, questo romanzo proprio per ragazzi dai 13 anni in su. 19ª edizione, come si è trasformato nel tempo il festival? Beh, ogni anno noi al Guerra e Pace Film Fest mettiamo sempre qualcosa di nuovo, e quest'anno per esempio la novità della manifestazione è proprio quella di aver introdotto il cortometraggio. Abbiamo infatti aperto un bando questo inverno, ne sono arrivati tantissimi, abbiamo selezionato 7 cortometraggi sempre sul tema della guerra che presenteremo ogni sera proprio prima del film, e saranno presenti, e questo sono contenta, proprio tutti gli autori dei cortometraggi, quindi saranno loro a raccontare le loro storie e a introdurci proprio alla visione del loro cortometraggio. La scelta dei titoli tra finzione, documentari e corti? È stata una scelta complicata perché comunque volevamo proprio centrare il tema. Il Guerra e Pace ogni anno sceglie un tema forte da seguire, anche perché ci piace che alla fine della manifestazione lo spettatore torni a casa avendo proprio fatto un vero e proprio viaggio cinematografico. È stata una scelta, insomma, come dicevo, complicata. Abbiamo visto tantissimi film e quelli selezionati ci sembravano quelli più adatti perché ognuno è un film diverso proprio per stile e per ambientazione, e quindi lo spettatore potrà tornare a casa insomma con una visione più ampia su alcune tematiche, come ad esempio anche quella dell'Olocausto, che ritroveremo in 2 film come Iona nella balena, e quindi avranno insomma diversi punti di vista proprio nell'affrontare un tema di cui insomma c'è ancora necessità di parlare. Ci dai tutti i riferimenti internet per la programmazione? Il programma può essere scaricato, la nostra locandina programma, sul sito www.guerreepacefilmfest.it. Siamo anche sui social Facebook e Instagram, quindi il nostro pubblico insomma può seguirci anche lì, dove aggiorneremo anche della partecipazione insomma dei diversi ospiti che ci saranno nelle diverse serate. Guerra e Pace Film Fest, 19ª edizione a Nettuno al Forte San Gallo dal 26 luglio al 1 agosto 2021. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Stefania Bianchi. Un in bocca al lupo e a presto. Viva il lupo e grazie a voi insomma per seguire da sempre in Guerra e Pace Film Fest. Grazie moltissimo. Il regista Giovanni Totaro sul suo documentario Happy Winter su Speciale TG1 domenica 1 agosto 2021. Giovanni, ben trovato. Ben trovato Federico, buonasera a tutti, eccoci. Ci racconti un po' di questa storia? Lo raccontiamo a chi ci ascolta? Ma che dici? Direi che è tempo per un primo bagno al mare, perché si tratta di una commedia interamente girata in spiaggia a Mondello, che è un po' la spiaggia simbolo della città di Palermo, Il film è girato in questa spiaggia nell'arco dei 3 mesi estivi ed è una commedia che poi in sé ha anche una riflessione sulle contraddizioni del paese. Ecco, la spiaggia diventa un'Italia in piccolo, in miniatura. Com'era partito il progetto? Il progetto è partito quando questo villaggio vacanze autogestito, fatto di cabine mare, rischiava di sparire nel 2014, poiché le spiagge attrezzate che continuano ad avanzare con lettine ed ombrelloni rischiavano di prendere definitivamente il posto delle cabine, che rappresentano un po' un'epopea del vivere il mare, una tradizione balneare molto forte, soprattutto qui a Palermo. Di conseguenza ho capito che andava a sparire qualcosa che è particolare e che mi permette di raccontare anche la mia città e in senso lato tutta l'Italia. E allora iniziai le prime riprese nel 2014. Fortunatamente iniziai a lavorare al progetto. Fortunatamente questa, diciamo, data di estinzione è stata posticipata al 2020, quindi poi ho avuto il tempo di girare il film, ecco. Di che realtà si tratta? Quante migliaia di persone l'attraversano in questi 3 mesi? Tantissime migliaia di persone. Devi immaginarti che è come se fosse un intero quartiere, un quartiere di una città, un quartiere temporaneo, ecco, dal 15 giugno fino al 15 settembre. Quindi è una realtà vastissima. Umanamente parlando, ho trovato grandi stimoli in tutto questo e la sfida è stata anche quella di lavorare appunto sui protagonisti giusti che potessero poi in qualche modo sintetizzare questa vacanza italiana. Abbiamo una famiglia che durante i 3 mesi estivi progetta quello che è un andare via dal paese, quindi loro da sotto l'ombrellone fanno i conti con un possibile trasferimento in Svizzera. E allo stesso tempo abbiamo il politico che inaugura la sua campagna elettorale in spiaggia, quindi inizia a cercare voti già sulla spiaggia, e il padre di questa famiglia si aggrappa subito speranzoso nei confronti del politico per un possibile posto di lavoro che gli permetterebbe di restarsene al sole piuttosto che andare in Svizzera. Ecco, tante dinamiche tipiche del nostro paese si mettono in moto in questi 3 mesi estivi, che poi finiscono con le preoccupazioni e tutti gli interrogativi su quello che poi sarà l'inverno, perché la stagione estiva viene percepita come una bolla in cui per un attimo si riprende fiato le vacanze da quella che poi è la realtà di tutti i giorni. Giovanni, dal 2014 più o meno con quante persone hai interagito per il tuo film? Centinaia, perché per poter poi girare nel 2016 il film ho cercato di fondermi appunto con questa comunità che diventa un vero micromondo, con una comunità tutta sua, diciamo una tribù nel senso buono del termine, con dinamiche e legami forti nel passato. Di conseguenza io ho speso 2 estati prima di girare per entrare in sintonia e per farmi anche accettare e per preparare l'arrivo della macchina cinema nella spiaggia, perché non dovevo andare ad ostacolare quella che poi è la loro vacanza, quindi doveva essere un'entrata più indolore possibile rispetto all'arrivo appunto della troupe in spiaggia. E questo è stato possibile grazie al lavoro precedente svolto in spiaggia e che mi è servito anche per selezionare il cast e i giusti protagonisti del film. Giovanni, che impressioni ne hai ricavato? Ma le impressioni che ho ricavato sono quelle là che più che una crisi economica, alla fine facciamo i conti con quella che è una crisi identitaria e culturale. Cioè questo si sente nel film e quindi questa amarezza e questa corsa rispetto a trovare un lavoro, a trovare una soluzione economica, a trovare un posto migliore, e alla fine si affonda in un momento di smarrimento più ampio. Il film comunque resta, e questa era la mia intenzione di partenza, un film godibile, divertente, spensierato, che a un secondo livello trasmette una riflessione sul paese più profonda. Che forma distributiva hai scelto? Il distributore è Wonder Pictures, sì. Un distributore insomma abbastanza attento a quelli che sono i film più particolari, perché il nostro è un film molto particolare per certi aspetti. All'estero il film è andato molto bene, anche perché insomma ha un fascino quasi esotico per il resto del mondo. Il film è, oltre all'anteprima al Festival di Venezia in selezione ufficiale, è stato in giro per tantissimi festival che sono importanti, però mi rendo conto magari più per gli addetti ai lavori. Probabilmente a casa gli ascoltatori si chiederanno

Grazie, vive il lupo. Arrivederla, a presto. Con Carmelo Galati, uno dei curatori di Cinema City. A Palermo, terrazza sul mare di Sant'Erasmo, dal 26 luglio al 1 agosto 2021. Ben trovato. Ciao Federico, grazie ancora una volta per ospitarci, grazie davvero. Si tratta di una rassegna cinematografica, ce la presenti? Mi fa piacere intanto fare una piccola premessa, perché dopo questi mesi insomma di restrizioni, finalmente, nonostante le difficoltà e la fatica, ritorniamo a riunirci, a guardarci, a fare esperienza collettiva, che è quello che ci interessa, e vedere un po' di cinema insieme sotto le stelle del cielo di Palermo. Quest'anno cresciamo sia in qualità che in quantità, mi permetto di dire, perché dopo le prime edizioni, 3 proiezioni, 5 proiezioni, quest'anno facciamo il doppio salto e facciamo 14 proiezioni, saranno 7 le serate. La grande novità sono le 2 collaborazioni prestigiosissime con Rai Cinema Channel e col Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Sicilia, perché in testa ad ogni film in programma ci sarà un cortometraggio. Le prime 5 serate vedranno i corti finalisti dei Davide di Donatello 2021 e le ultime 2 serate 2 film corti inediti di 2 giovani allievi della scuola. Il 26 abbiamo l'esordio di Ficarra e Picone con Nati Stanchi, con un video contributo del duo comico. Forse ci sarà anche una piccola sorpresa, potrebbe arrivare a presentare la serata, salvo Ficarra. Il secondo giorno abbiamo Mediterraneo, un omaggio al premio Oscar, e verrà a Palermo a presentare la serata il grande Enzo Monteleone, premio Oscar per la sceneggiatura del film. La terza sera facciamo un bellissimo omaggio a un nostro autore palermitano poco conosciuto. In questo momento il suo film è in piattaforma, lo si può vedere soltanto in televisione, e questa è una grande battaglia che stiamo facendo per ritornare a vedere i film al cinema, sul grande schermo. E sarà questo film femminista che si chiama Il mio corpo vi seppellirà, un film su delle brigantesse nella Sicilia dell'Ottocento. Ci saranno Giovanni La Parola, Domenico Centomore, lo scenografo Marcello Di Carlo, tutto un impianto palermitano. A seguire avremo il bellissimo omaggio a Nino Manfredi, a 100 anni dalla nascita del grande Nino nazionale, e faremo il bellissimo C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, e verrà la figlia Roberta Manfredi a parlarci di cose intime del proprio papà, e anche l'ultimo regista con cui ha lavorato, che è il marito di Roberta ed è il regista Alberto Simone. Continuiamo con Il gioiellino. Mi piace definirlo gioiellino perché è un film delicato che tutti conoscono e hanno visto, hanno potuto apprezzare anche in vari festival, ed è Pranzo di Ferragosto, di impianto tipicamente romano, prodotto dal grande Matteo Garrone, con la sceneggiatura di Massimo Gaudioso e la regia di Gianni Di Gregorio. E sarà proprio Massimo Gaudioso che ci verrà a parlare di questo film. Continuiamo il 31 di luglio con questa retrospettiva nel tempo che stiamo facendo ai nostri 2 autori più amati, che sono Cipri e Maresco. Abbiamo iniziato il primo anno con Come inguaiamo il cinema italiano, abbiamo seguito Il ritorno di Cagliostro, la scorsa edizione. Quest'anno facciamo il bellissimo, poco conosciuto, Enzo Domani a Palermo, bellissimo viaggio nel cinema, nelle comparse, nei capi comparsa tipici palermitani degli anni 70-80, bellissimo film davvero. E chiudiamo, caro Federico, come ci piace definirlo ancora una volta, con un film per bambini da 0 a 90 anni, e ci vedremo E.T. di Steven Spielberg, un film nei nostri cuori, un film che ci racconta quanto il diverso da noi spesso è allontanato, disprezzato, disconosciuto, ma dovremmo imparare invece ad osservarlo, ad accoglierlo e a capire che è una grande risorsa. È un'arena che sta crescendo, raccontiamo anche com'è nata l'idea. Sono vissuto per 20 anni a Roma e vengo da tutte le lotte sociali, anche delle occupazioni del Teatro Valle, dei ragazzi del Cinema America. Abbiamo sempre voluto, nella nostra idea, quella di riappropriarci degli spazi comuni, di valorizzare i beni comuni, valorizzare gli spazi che le città ci regalano. E allora, una volta tornato a vivere a Palermo, ho pensato che questa idea potesse essere fatta anche qui, e Palermo era pronta ad accogliere questa idea. Infatti le prime edizioni ce ne hanno parlato. La gente arriva a fiumi, senza sviolinate, ma è proprio così. Abbiamo problemi a contenere, specialmente in questo periodo di grande difficoltà e di emergenza sanitaria, e a contenere la gente, ma facciamo tutto a norma di legge, con i distanziamenti fisici, ma non sociali, e continueremo nel corso degli anni. Cercheremo di alzare sempre di più la qualità, cercando di fare un viaggio sempre su tutti i generi del cinema. Questo è uno spazio nuovo. Perché l'idea di Cinema City è quello, la sua missione è quella di andare in giro per la città.

Crepi il lupo, ne approfitto come ultimissima cosa per salutare Claudia Solano, la mia co-direttrice, che ha fatto un lavoro straordinario. Grazie Federico, buona giornata. Con Patrizia Salvatori del Cine Club Alphaville per presentare l'Arena Alphaville d'estate al Pigneto dal 27 luglio al 24 agosto 2021. Ben ritrovata! Grazie, grazie a voi tutti, grazie a te in particolare Federico, sono contenta di essere di nuovo d'estate con voi, con tutti noi, per presentare il nostro, il vostro, perché è un po' di tutti, questo cinema vintage ma di grandi autori, che sicuramente può essere una sorpresa per chi non lo conosce e una riaffermazione di cose belle per chi già l'ha visto, quindi va bene per tutti, per ragazzi, per persone grandi e poi nell'atmosfera, insomma la solita nostra atmosfera che ormai da qualche anno ci contraddistingue, che è nel piccolo giardino che circonda il centro degli anziani, un modo per comunque far vivere anche l'estate luoghi che solitamente poi sono chiusi. Tra l'altro in quest'anno di pandemia erano chiusi questi luoghi e per fortuna il cinema li ha riaperti, quindi mi fa ancora di più piacere potervi dare la notizia che finalmente anche quello spazio, il Pigneto, almeno finora ci sembra molto aperto, molto pieno di piante, lo stiamo curando come fosse un bambino, ecco. Quanti titoli quest'anno? Facciamo un mese circa, dal 27 di luglio al 24 di agosto, i titoli sono circa 30, sono soprattutto poi collegati tra di loro con quest'idea di libertà, per cui normalmente durante la settimana ogni titolo non ha a che vedere con una rassegna, ma ha a che vedere semplicemente con il desiderio di essere liberi, di guardare, di riguardare titoli che hanno fatto grandi la storia del cinema, con qualche eccezione, perché anche quest'anno io ho pensato bene di ricordare con l'anniversario e dedicati alcuni dei nostri più grandi, non soltanto italiani ma internazionali, universali, autori della storia del cinema. La particolarità di questa arena è che a fronte di tutti questi titoli liberi e bellissimi e veramente capolavori, abbiamo però una rassegna intera dedicata ad Akito Aurismäki, e questo secondo me è un omaggio dovuto ad un autore, regista finlandese che sicuramente ti piacerà tantissimo, io penso Federico. Sì. Assolutamente. Perché è un regista che ha di suo la capacità di saper raccontare gli ultimi e non soltanto però con toni malinconici, lacrimevoli o quant'altro, ma riuscendo sempre a provare a proporre nel corso del lungometraggio e nel corso dei suoi lavori un'atmosfera cangiante che ad un certo punto quasi diventa non solo positiva ma quasi capriana, quasi alla Frank Capra. È un regista incredibile Akito Aurismäki, anche dal punto di vista dell'uso della tavolozza dei colori, che a tratti ricorda addirittura certe tele chiaroscure, rosso bordeaux, verde, per esempio di Edward Hopper. Quindi no, devo dire che è uno di quei registi che appassiona molto una fascia ampia di pubblico, perché ci si trovano dentro tantissime cose, tantissimi spunti, ripeto, partendo dagli ultimi, anche dalla violenza, dall'aggressività dell'essere umano, ma per arrivare spesso a finali davvero propositivi, ecco, se non proprio positivi, propositivi. Quindi da questo punto di vista mi sembrava opportuno, forse in questo periodo così particolare della nostra storia umana, ecco, dedicarci anche a visioni altre di questo tipo, con accenni di ironia piuttosto forti, insomma, basta pensare a Leningrad Cowboys. Tra l'altro in quella rassegna di Akito Aurismäki avremo un fuori programma davvero caldo e di eccezione, che è lo sconosciuto di Todd Browning con il grandissimo Lon Chaney, uno dei più grandi, veramente dei più grandi, forse direi il più grande dell'epoca, dei primi anni del Novecento, prestigiatori, trasformisti della storia del cinema. Quindi questa è la rassegna totale, quella che ho voluto dedicare ad un solo autore, però ci sono molti dedicati, soprattutto c'è un indizio folgorante il 27, che è un martedì 27 luglio alle 21, in via Luigi Filippo di Magistris 21, appunto al Pigneto, c'è questo indizio dell'estate violenta di Valerio Zurlini, un titolo secondo me tra i più significativi della storia del cinema italiano e non soltanto direi proprio europeo, ambientato appunto nella Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto con una storia molto molto intrigante, molto passionale, e anche non soltanto questo, affidata a due interpreti di eccezione come Jean-Luc Trintignant e Eleonora Rossi Bravo. E soprattutto sono contenta di iniziare con Valerio Zurlini, perché mi sembra uno dei registi più dimenticati della storia del cinema italiano, che invece avrebbe diritto di essere presente tantissimo anche proprio per motivi scolastici, vista la sua grande capacità di raccontare col documentario ma anche con la fiction. e poi faremo vedere a ciascuno il suo di Elio Pepi, che è un altro omaggio a Leonardo Sciascia, che nacque nel 1921, primo film di Sciascia a essere portato sullo schermo da un grandissimo Gian Maria Volonté e soprattutto per la regia di un altro grande regista italiano che purtroppo a tratti viene ricordato con la giusta considerazione e dimensione che gli è dovuta da sempre, che è Elio Petri. E poi naturalmente faremo tutta una carrellata di film che hanno a che fare con la commedia, penso ad Arthur, che hanno a che fare con la commedia sofisticata del grande Lubitsch, quello declinato in due film, Mancia competente ed Angelo, e poi faremo vedere alcuni titoli, insomma, di quelli più famosi, di grandi registi, mi viene da dire La mosca di David Cronenberg, perché è uno di quei titoli che insomma rivederli fa sempre molto piacere. Poi faremo naturalmente un omaggio alla grande Olivia Davillan di Via col Vento, con, perché c'è l'anniversario, Piano piano dolce Carlotta, che è un film di Robert Aldrich che segue naturalmente con Betty Davis e che dà questa dimensione veramente orrorifica di una storia incredibile, parte da una realtà e finisce per essere una cosa incredibile, drammatica, violenta, oserei dire, ma molto molto legata al cinema di Robert Aldrich, e quindi non ci mancheranno queste paure, non ci mancherà un weekend dedicato al cinema francese, dall'animazione di Appuntamento a Belleville, quel delizioso cartone animato veramente a passo uno, non con le nuove tecnologie digitali di Sylvain Chomet, con la nonna e il nipote che vuole per forza appunto essere un grandissimo ciclista, con tutto quello che ne consegue. E poi ci sarà naturalmente sempre in quel weekend un omaggio, sempre nel weekend francese, un omaggio ad un autore, sceneggiatore molto famoso in Francia ma anche per noi, Jean-Pierre Bacri, che è comparso recentemente, e io ho pensato di dedicargli parole di Alain René, quel film commedia musicale che tanto ha incantato insomma all'epoca, alla fine degli anni 90, il pubblico di tutta Europa e non soltanto. Poi naturalmente ci sarà un weekend dedicato al giallo che noi amiamo in maniera particolare, tantissimo, che è il giallo di Chabrol, ci saranno due titoli, Grazie per la cioccolata e A doppia mandata, con queste caratteristiche tipiche dell'universo chabroliano, quello di raccontare storie gialle che fungono da contenitore ad un'analisi più approfondita della società, dei piccolo borghesi, dei medio borghesi, che sono alla base di alcune delle sue narrazioni. Naturalmente poi avremo tantissimi altri titoli che non posso dire qui perché ce ne sono 27 mi sembra il tutto. C'è per esempio Riff Raff di Ken Loach, questo spaccato di operaismo in un periodo storico particolare. Adesso sono cambiate molte cose, ma dal mio punto di vista il modo di affrontare di Ken Loach è sempre quello più corretto e più giusto. Voglio dire un'ultima cosa per Fyodor Dostoevsky: c'è l'anniversario letterario di Fyodor Dostoevsky, ho tentato di far vedere Quattro notti di un sognatore di Robert Bresson, perché obiettivamente è un bellissimo titolo, spesso non molto ricordato, dove appunto si intreccia questa incredibile storia sul ponte, sul ponte, e soprattutto, e quindi il ponte che rievoca tanti ponti nella storia del cinema francese, qui però un ponte del 1971, quindi abbastanza tempo fa, infatti c'è anche l'anniversario della pellicola, che chiuderà appunto queste nostre serate, tutte le sere dalle ore 21 fino alla mezzanotte, costeggiando insomma il centro di Chiani nel piccolo giardino che lo circonda. Alphaville d'estate al Pigneto, l'arena del Cineclub Alphaville. Un saluto e un ringraziamento a Patrizia Salvatori. Posso dire una cosa, Federico? Vi ricordo che a breve, non sarà ancora autunno, il Cineclub Alphaville si trasferirà e quindi da via del Pigneto 283 andrà in via Romanello da Forlì 30, sempre al Pigneto, anzi ancora di più cuore del Pigneto. Vi faremo sapere comunque attraverso Facebook e tutti gli altri canali quando ciò avverrà definitivamente. Sarà sempre Alphaville in un altro piccolo posto. Ecco, appunto, dacci tutti i riferimenti internet per saperne. D'accordo, vi farò sapere al più presto. Ti ringrazio, Federico, grazie a tutti voi dell'ascolto e soprattutto buona estate, buoni giorni, buona vita. Con Sergio del Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino per presentare Centocelle City Movies. Il giovedì e il martedì dall'8 luglio al 5 agosto 2021. Sergio, ben trovato. Ciao, ciao a tutti e a tutte. Raccontiamo questa nuova rassegna. E anche quest'anno Centocelle City Movies scende in arena, nell'arena del parco esterno, e